Letture di Radio 24. Riparte la stagione della caccia, accompagnata come ogni anno da incidenti e polemiche. Ma noi cacciatori siamo gentili e rispettosi dell'ambiente, replica Luigi Angeletti, segretario della UIL. Sarà anche vero, ma come scrive Fulco Pratesi sul Corriere della Sera, ci sono almeno due valide ragioni per cui i cacciatori sono invisi alla maggior parte degli italiani. Forse di cacciatori gentili, come si definisce il segretario della UIL Angeletti, ne esistono pure. Ma in Italia credo siano davvero scarsi. Non altrimenti si spiegherebbe l'antipatia che incontrano, diversamente da quanto avviene negli altri paesi. Il fatto che la maggior parte dei cittadini avversi la caccia mal si concilia con l'immagine di persone attente all'ambiente. A parte considerazioni etiche ed emotive, che comunque fanno giudicare inaccettabile l'uccidere per divertimento, due sono, tra le altre, le ragioni che rendono i cacciatori invisi alla quasi totalità degli italiani. Innanzitutto, cosa che all'estero non succede, la mania della caccia ai piccoli uccelli. Questi, che nei paesi del nord sono considerati messaggeri di primavera, ornamento dei giardini e dei campi, gentili creature da proteggere, da noi sono fatti oggetto di una incomprensibile e letale passione. Nonostante la legge venatoria abbia escluso la caccia, su sollecitazione dell'Unione Europea, a quasi tutti i piccoli uccelli, ogni anno le regioni, pressate dai cacciatori, tentano di far includere tra le specie cacciabili creaturine come il fringuello, la peppola, la pispola, il frosone e altre. Per le deroghe concesse dalle regioni, in questo campo l'Italia è esposta a pesanti multe dall'Unione Europea, a carico anche di chi cacciatore non è. Ed è sempre per uccidere altri uccelli in periodo di migrazione che il Parlamento ha concesso recentemente la facoltà di cacciare anche oltre il 31 gennaio. La seconda ragione, tra le tante, di malevolenza, sta nel fatto che grazie a un articolo inserito nel Codice Civile nel 1942 per facilitare la preparazione bellica degli italiani, ai soli cacciatori e non pescatori, fotografi, escursionisti, eccetera, è consentito di entrare nei terreni privati senza il permesso dei proprietari. Anche questo privilegio, inesistente in qualsiasi altra nazione del mondo, sta alla base della richiesta di limitare notevolmente, se non abolire come tantissimi richiedono, l'attività venatoria. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Fulco Pratesi, I privilegi dei cacciatori gentili e la strage dei piccoli uccelli, dal Corriere della Sera del 22 settembre. Letture di Radio 24. Imperfetto al posto del congiuntivo, passato prossimo al posto del passato remoto, gli al posto di le. La lingua italiana sta cambiando e spesso gli errori grammaticali più comuni rappresentano una forma di autodifesa contro le regole più difficili da accettare. Se me lo dicevi prima, ci pensavo io. Allora, dove sarebbe l'errore? Sbotta Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. E tanti saluti al congiuntivo, se me lo avessi detto, proprio come fanno i calciatori alla TV. Guardi che scrivevano così anche Manzoni e Bembo, il codificatore supremo della lingua italiana, riprende il professore prima di poggiare la cornetta e avvicinarsi alla libreria. Ecco qua, Promessi sposi, capitolo 34. Se mi si accostava un passo in più, l'infilavo addirittura il birbone. Niente congiuntivo. Magari di Manzoni possono dire che era uno scapestrato e allora aspetti. Prendo le lettere di Pietro Bembo. Non ti bastavano le ingiurie se tu ancora quella ferita non mi davi. Niente congiuntivo. L'Accademia della Crusca è l'Istituto Nazionale per la Salvaguardia e lo Studio della Lingua Italiana. Salvaguardia, mica robetta. Ma non vuol dire segnare sempre con la matita rossa i nuovi usi della lingua, quella parlata tutti i giorni nelle case, negli uffici e nei bar, magari distante anni luce da quella immobile nei libri di grammatica. Soprattutto perché, spiega il professor Sabatini, i cambiamenti più vistosi riguardano l'accettazione di fenomeni di antica data che prima venivano censurati e che invece si sono affermati perché funzionano meglio. Se durano, un motivo ci sarà, o no? L'esempio classico è la frase «il latte lo compro io». Per anni questa struttura è stata considerata un'inutile ripetizione, una più brutta variazione del più limpido «io compro il latte». E invece no. Se già si stava parlando di latte, è proprio quella la forma che funziona meglio. Anche stavolta, nella libreria del professore, c'è un precedente. È una sentenza del X secolo, una lite su alcuni poderi nella zona di Monte Cassino. Quelle terre, dicono alcuni testimoni in volgare, le ha possedute l'abbazia. Nulla di nuovo. Ma non c'è solo il recupero del passato nei cambiamenti della nostra lingua. Tullio De Mauro, linguista di fama mondiale e per alcuni mesi anche ministro dell'istruzione, parla di legittima autodifesa dalle regole sulle quali la scuola ha picchiato più duro. Il passato prossimo al posto del passato remoto? Tutti noi, se dobbiamo dire che abbiamo cotto qualcosa anni fa, preferiamo cambiare strada e dire «ho cucinato». «Io cossi, tu cocesti, egli cosse». Il terribile ricordo dei verbi irregolari ci spinge verso sentieri meno impervi. «Oh, più un bel participio, facile facile». Ma non può essere solo questo. Il verbo «scoprire» non è perfido né irregolare. Eppure, la maggior parte di noi dice «Cristoforo Colombo ha scoperto l'America nel 1492», non «Cristoforo Colombo scoprì l'America nel 1492». Un errore? Il professor Sabatini, che a questo punto sarà diventato simpaticissimo a tutti gli studenti italiani, dice di no. Bisogna tener conto della dimensione psicologica del tempo, non solo di quella fattuale. E se dico che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, vuol dire che nel mio discorso considero ancora attuali gli effetti di quella scoperta. Eccola, forse, la causa della scomparsa del passato remoto. Nell'uso vivo della parola siamo abituati a parlare di cose che riguardano il presente, anche quando partono da eventi passati, eppure remoti. Più che gli scrittori e i linguisti, però, a maneggiare la lingua di tutti i giorni sono gli autori delle fiction TV. Ivan Cotroneo ha scritto la sceneggiatura di Tutti i pazzi per amore e dice subito che per costruire un personaggio credibile è fondamentale farlo parlare come noi umani. Digli cosa vuoi, ad esempio. Nei dialoghi usiamo sempre gli. Le per le donne o loro per il plurale non esistono più. Lui ne soffre, in realtà. Da scrittore e traduttore è maniaco di queste cose. Ma una precisione del genere se la può concedere al massimo Nonna Clelia, che nella fiction è un avvocato con un gusto della battuta piuttosto ricercato, in bocca agli altri suonerebbe scorretto. Sempre per costruire storie credibili, alcuni suoi personaggi fanno a meno delle sfumature del futuro. Cristina dice «Quando arriverò, farò questa cosa». Ma per salvare la grammatica abbiamo Emanuele che la corregge. «Quando sarai arrivata, futuro anteriore». Attenzione però, Emanuele non è l'adolescente tipo, è un secchione un po' rompiscatole. Un trucco usato in ogni puntata per mettere insieme realismo e grammatica. Finora Emanuele ha ripreso Cristina sul congiuntivo e sulla consecutio temporum. Nella prossima serie la sua battaglia potrebbe essere sul punto e virgola. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Lorenzo Salvia, L'italiano che cambia, semplificazione o sciatteria, dal Corriere della Sera del 21 settembre. È concepito come un'artificialità meccanicistica, meccanismo giuridico che sospinge verso la nientità del diritto. Queste sono solo alcune delle perle di burocratese contenute in un documento inviato da un segretario comunale ai dipendenti del municipio di Ariano Irpino, provincia di Avellino. Come fa ad essere meridianamente epifanica l'indifferenza contenutistica? La domanda toglie il sonno da giorni ai dipendenti del comune di Ariano Irpino, che hanno avuto la fortuna di imbattersi nella lettera protocollata 15.547 e firmata dal nuovo segretario generale Vincenzo Lissa. Un capolavoro assoluto. Un documento che nessun comico al mondo, volendo irridere al burocratese, potrebbe mai scrivere. Eccone, per la delizia del lettore, alcuni estratti. Ho letto lo scritto emarginato in epigrafe con tutta l'attenzione che ha meritato, nulla più. Vediamo elenticamente perché. Da essa viene in emersione una apodottica concezione del diritto immaginato come un'astrazione da investire acriticamente. Infatti è meridianicamente epifanica l'indifferenza contenutistica che implica meccanicisticamente un calco a rime obbligato. La devozione al culto del formalismo idealizzato come un rifugio onirico. Tale rifugio svolge una funzione redentrice, ma tutto ciò, come ammonisce un maestro dei nostri tempi, Natalino Irti, produce un meccanismo giuridico che sospinge verso la nientità del diritto. Ciò sta a significare, in termini più semplici, come una condotta attizia che è infeconda di effetti è appagante tuttavia per coloro che prefigurano la forma come l'unico stilema da assumere a paradigma della propria attività, in maniera del tutto avulsa dal contenuto e dalla sostanza. Ne deriva, come da logico corollario, come il formalismo solchi un canale più univoco con il nichilismo giuridico. Infatti nichilismo e formalismo sono apparentati da un'intima fraternità. D'altra parte, l'esperienza del nulla contenutistico esige il solo rigore formale. Dunque è nel formalismo che si ricerca la salvazione del diritto. D'altra parte non vi è chi non veda come la riproposizione formale di amletismi non è altro che la riproduzione di un vuoto contenutistico che trova il proprio archetipo nel cavillo che, come sosteneva Francesco De Santis nel suo viaggio elettorale, altro non è se non il trionfo della mediocrità. A questo punto, qual era, secondo voi, il tema al centro di questa lettera? La definizione cibernetica del concetto di zero radice? La sistemazione di alcuni lavoratori socialmente utili? Un corso di astrofisica progettuale? Un'equazione di qualunquismo genetico? L'acquisto di una scopa? Ma più ancora urge una domanda. Vincenzo Lissa c'è o ci fa? Perché se quella lettera era uno scherzo, lui è un genio e merita senz'altro al posto di Calderoli il Ministero per la Semplificazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gian Antonio Stella, La lettera comica del signor burocratese, dal Corriere della Sera del 22 settembre.